sotto un manto di stelle, Roma bella m'appare. Solitario il mio cuore, disilluso d'amore, va nell'ombra a cantare. Una muta fontana, un balcone lassù, o chitarra romana, accompagnami tu. Suona, suona mia chitarra, lascia piangere il mio cuore, senza casa e senza amore, mi rimani solo tu. Se la voce è un po' velata, accompagnami in sordina, la mia bella fornarina, al balcone non c'è più. Lungo Tevere dorme, mentre il fiume cammina, io lo seguo perché mi trascina con sé e travolge il mio cuore. Vedo un'ombra lontana, una stella lassù, o chitarra romana, accompagnami tu. Suona, suona mia chitarra, lascia piangere il mio cuore, senza casa e senza amore, mi rimani solo tu. Se la voce è un po' velata, accompagnami in sordina, la mia bella fornarina, al balcone non c'è più. Se la voce è un po' velata, accompagnami in sordina, la mia bella fornarina, al balcone non c'è più. O chitarra romana, accompagnami.